Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione che oramai da oltre un anno quotidianamente vi accompagna nei vostri percorsi mattutini e serali. Ricordo che siamo in replica alle 20:45. Subito la nostra mail al quale segnalare casi unabusoalgiorno@radio24.it. Mi raccomando, casi che possono rappresentare non soltanto un interesse personale, quelli non li prendiamo purtroppo in considerazione, ma che interessino invece una platea molto ampia di radioascoltatori e di persone. Ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Oggi parliamo di un caso che riguarda migliaia di persone in tutta Italia. Prendiamo spunto da una lettera che ci è stata spedita da una nostra radioascoltatrice, Vincenza Maria Minotti di Roma, che fa riferimento ad una situazione difficile in cui versano migliaia di persone soltanto a Roma, ma in realtà decine di migliaia in tutta Italia, vale a dire le persone che soffrono di disagio mentale. È una storia che ci ha raccontato Vincenza Maria Minotti, devo dire in maniera assolutamente pulita, trasparente, senza retorica e senza quelle che possono essere, come dire, delle difficoltà emotive che i genitori di queste persone naturalmente possono avere. Io do il buongiorno e il benvenuto a Vincenza Maria Minotti. Buongiorno. Allora, ci racconti la storia che lei ha scritto appunto in questa mail, che riguarda suo figlio, un ragazzo di 38 anni, malato da 18. Prego, signora Minotti. Il problema è che sempre, appunto, come ho detto, la mancanza di personale, che non è dovuta né, diciamo, allo stesso dipartimento, ma diciamo una situazione generale, ma soprattutto del di Via di Torre Spaccata, che ha un'utenza vastissima, tra cui è compreso anche il territorio di Torbella Monaca, con tutti i disagi che ci sono in quel territorio. Ecco, io riassumo e completo quello che lei sta dicendo, perché ci ha segnalato, come dire, dei numeri di cui adesso chiederemo conferma, vale a dire, pensate che soltanto nel Dipartimento di Salute Mentale, presso il quale è appunto seguito il figlio della signora Minotti, ci sono almeno 2300 pazienti, con 10 psichiatri e 4-5 psicologi. Lamenta la signora Minotti che il personale collocato a riposo, quindi andato in pensione, non è stato mai rimpiazzato. Quindi proviamo a pensare a quello che può essere la situazione di chi dovrebbe essere seguito in maniera costante e invece purtroppo per ristrettezze economiche, pensionamenti e quant'altro non viene seguito come dovrebbe. Le difficoltà poi le sappiamo, sono sotto gli occhi di tutti quotidianamente. Quando queste persone non vengono seguite, spesso si può anche trascendere in drammi che sicuramente sono familiari, ma sono anche collettivi. Vorrei ricordare che questo è, come dire, un abuso ad un diritto fondamentale, che è il diritto alla salute sancito nella nostra Carta Costituzionale all'articolo 32, Costituzione che molti vorrebbero mettere sotto i piedi, che invece, ricordiamolo, è una carta di principi e valori attualissimi. Allora, io direi, prima di tornare dalla signora Minotti, di chiamare in causa, e gli do quindi il buongiorno, Paolo Boccara, che dirige il Dipartimento di Salute Mentale di Roma B. Buongiorno Boccara. Buongiorno. Allora, lei ha visto e ha sentito da queste prime battute, non c'è alcun tipo, diciamo, di polemica, che magari in altre parti d'Italia è anche facile fare. È semplicemente una presa d'atto di una situazione difficile che voi, credo, per primi vorrete denunciare. Sì, io intanto ringrazio la signora Minotti, perché in realtà noi abbiamo, come stile di lavoro e come bisogno anche del nostro lavoro quotidiano, avere i genitori dei nostri pazienti accanto in un momento estremamente difficile della nostra assistenza quotidiana. Quindi questo tipo di iniziativa è fondamentale, perché ci dà la possibilità di segnalare una difficoltà che ormai è da tempo, che non è soltanto di questi ultimi tempi e che nasce con la riforma dell'assistenza psichiatrica, perché la riforma ha posto un punto fondamentale, cioè che i pazienti non debbano essere curati in strutture lontane dal territorio e per anni e anni, come erano gli ospedali psichiatrici, ma le strutture territoriali devono essere aiutate a poter, come dire, crescere e poter assistere le persone in maniera adeguata. Noi abbiamo oggi nell'ottava circoscrizione una popolazione in continua ascesa, una popolazione in difficoltà per condizioni, diciamo, sociali ed economiche, e una situazione difficilissima su un piano della convivenza civile. Ora, questo implica che il disagio mentale che oggi arriva ai centri di salute mentale non è soltanto il disagio quello, diciamo, tradizionale degli ospedali psichiatrici di un tempo, sono situazioni gravissime, ma anche situazioni, diciamo, meno gravi ma ugualmente importanti. Certo, quindi persone che debbono comunque essere seguiti anche se non si arriva a livelli patologici come quelli che possiamo immaginare, ecco, dalla letteratura scientifica, insomma. Questo è molto importante, perché oggi i nostri centri di salute mentale, professionisti, casalinghe, studenti, persone che lavorano, oltre a tutto poi ragazzi che invece hanno gravissimi problemi e che voi avete citato soltanto medici e psicologi, ma che hanno bisogno di assistenti sociali, di educatori, certo, di comunità, di infermieri professionali adeguati e di tutta una serie di, diciamo, operatori che possono far sì che quell'intervento magari del medico che c'ha dai 100 ai 180 pazienti in carico sia in qualche modo coadiuvato da una serie di altri operatori. Ecco, io le vorrei chiedere questo, Boccara. Lei diceva che non è da ieri che questa situazione è stata segnalata, e noi siamo qui anche per questo, per cercare di sollevare un po' la coscienza civile e anche il senso di responsabilità dei politici, di chi governa, di chi è deputato, a cercare di trovare soluzioni laddove le soluzioni servono, e qui sicuramente servono, perché in tutta Italia ci sono centinaia di migliaia di persone che si trovano obbligate a essere curate per disagi mentali. E allora le chiedo, da quando esiste questa situazione e quali possono essere, senza ricette miracolistiche, che oggi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, le soluzioni per cercare di alleviare i problemi che vi assillano e quindi direttamente assillano anche i vostri pazienti? Allora, il primo punto è quello proposto dalla signora Minotti, cioè il problema di una carenza di personale anche storico, cioè tutte le sostituzioni di persone che vanno via, che già pongono dei problemi di continuità terapeutica e sicuramente poi pongono problemi che, se non vengono sostituiti, voglio dire, caricano sulle persone che rimangono. Un secondo esempio proprio di questo periodo: le persone che hanno bisogno di un ricovero ospedaliero nell'ottava circoscrizione oggi vanno, attraversano Roma e vanno al Fate Bene Fratelli, all'Isola Tiberina. Questo è improponibile perché noi non abbiamo attualmente un secondo reparto psichiatrico. Chiude il San Giacomo, nel momento in cui il reparto psichiatrico del San Giacomo viene chiuso, non viene a livello regionale ancora data una risposta positiva alla nostra richiesta di attivare nel Policlinico Casilino un reparto psichiatrico che possa permettere, nei casi in cui c'è bisogno di un ricovero, di poter essere ricoverato nella zona lì dove le persone abitano e dove è possibile fare un collegamento. Ecco, io a questo punto terminerei qui l'intervento di Boccara, intanto lo ringrazio, ma poi riprenderemo il discorso per tornare dalla signora Minotti, e quindi le chiedo, in questo momento suo figlio come viene seguito? Mio figlio viene seguito dallo psicologo tutte le settimane, quindi su quello non ho niente di cui, però diciamo una carenza è una carenza per lo psichiatra, perché lui aveva un medico che si è trasferito, dopo è venuta un altro medico che adesso è malato, quindi dal mese di luglio lui praticamente l'ha preso in carico un'altra psichiatra, che però lo ha visto, diciamo, un paio di volte. Lei la prima cosa che ha detto: ma io non lo conosco. Quindi diciamo che si è interrotta un po' la terapia, non la terapia farmacologica, per cui i farmaci prendi, diciamo di essere seguito dallo psichiatra. Certo. Noi facevamo una seduta ogni mese, mese e mezzo, adesso sono 2 mesi che ancora non la facciamo, con lo psichiatra e un'altra psicologa. Mi è venuta a mancare questa psichiatra, noi facciamo soltanto la seduta, diciamo, familiare, a livello familiare con la psicologa, però manca questa figura dello psichiatra, che comunque lui aveva iniziato a fare una terapia scalare di farmaci che praticamente si è interrotto un po' ecco, tutto. Ecco, allora io ringrazio la signora Minotti per il suo intervento. Dico ai nostri radioascoltatori, non abbiamo esaurito ovviamente l'argomento e quindi lo riprenderemo nei prossimi giorni, quindi continuate a seguirci la prossima settimana su questo tema. Ringrazio ancora Boccara, in regia Carmelo Lauricella, in studio Laura Fagina, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.